Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Prende il via domani a Milano a Palazzo Mezzanotte, nella sede della Borsa Italiana, l'ottava edizione del Trading Online Expo. L'incontro è dedicato al mondo del trading, dell'investimento online. Un evento che vedrà la presenza di oltre 45 espositori e offrirà la possibilità di incontrare i broker online, gli emittenti, le società legate al trading, al mondo universitario anche. Si tratta di un incontro rivolto agli investitori, ai trader professionisti, ma anche ai risparmiatori e piccoli investitori interessati a conoscere l'operatività appunto attraverso queste piattaforme su strumenti come gli ETF, gli ETC, i certificati, le obbligazioni, i derivati. Un evento rivolto appunto un po' a tutto il mondo degli investitori, ma soprattutto è dedicato anche ai piccoli che vogliono togliersi tutte le curiosità per poter capire appunto come approcciarsi anche correttamente a questo mondo che negli ultimi anni è cresciuto tanto nel nostro paese. Peraltro mi hanno anche detto, e questo è un aspetto che vorrò proprio approfondire questa mattina, che in Italia abbiamo le piattaforme più evolute d'Europa, per cui anche chi è un neofita può avvicinarsi gradualmente a questo mondo, naturalmente con tutte le dovute cautele, e fare delle operazioni in borsa appunto ovviamente adottando tutte le precauzioni del caso. Allora, oggi noi abbiamo invitato i più accreditati operatori del settore, ai quali potete rivolgere le vostre domande nel caso siate interessati appunto ad avvicinarvi a questo mondo, all'800 24 00 24. Io li saluto subito perché sono tanti questa mattina. Intanto è qui in studio a Milano con me Alessandro Capuano, responsabile IG Markets Italia. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi. E poi abbiamo in collegamento telefonico Mario Fabbri, amministratore delegato di Direct Assim. Dottor Fabbri, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere intervenuto a Salva Danaio, così come ringrazio Marco Briata, responsabile prodotti e servizi di trading di Fineco Bank. Briata, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. E poi dovremmo avere fra qualche istante i padroni di casa di questo evento, quindi la Borsa Italiana. Allora, vi ho ricordato il numero verde per intervenire, vi ricordo anche che potete scriverci alle 349-238-6666 per appunto soddisfare le vostre curiosità sul tema dell'operatività online per investire in borsa sui mercati finanziari internazionali. In passato abbiamo dedicato a questo argomento anche altre trasmissioni, soprattutto al tema dell'investimento online sulle valute, che è un mercato abbastanza complicato. Oggi peraltro anche questa volatilità che stiamo vedendo sul mercato dei cambi sta suscitando anche una certa attrazione da parte di molti investitori, però insomma ci sono dei mercati che sono un po' complicati, per cui è bene avere anche l'interesse giusto nei confronti di questo mondo. E allora noi stamattina abbiamo chiamato gli operatori proprio per farci dare anche tutte le dritte giuste per avvicinarsi, lo ripeto, con gradualità a questo tipo di investimento. La borsa, rapidamente, oggi il mercato è molto volatile perché era partito male, addirittura Londra perdeva quasi un punto, adesso perde lo 0,5%, mentre gli altri indici del vecchio continente si sono portati in territorio positivo. Parigi più 0,2%, Francoforte sulla parità, Milano più 0,46%, anche se Moody's stamattina ha espresso qualche preoccupazione sulle condizioni delle banche italiane. I titoli che sono più penalizzati li abbiamo citati nel giornale radio: il Banco Popolare, Monte dei Paschi, ma oggi scende di nuovo Bulgari, scende anche Fiat. In salita invece STM più 3,82% dopo i conti migliori delle attese, torna a salire Luxottica più 1,86%, Finmeccanica più 1,78%. L'euro sul dollaro riaggancia 1,38%, il rapporto di cambio adesso a 1,38,35. Lasciamo la borsa, subito al tema di oggi, parliamo di trading online. Curare i propri investimenti da casa, così come dall'ufficio. Sono sempre più numerosi gli italiani che hanno deciso di seguire in prima persona il proprio portafogli utilizzando internet, affidandosi al trading online. Si tratta di un servizio che consente appunto l'acquisto e la vendita attraverso internet di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, future e titoli di Stato. Il trading online è sbarcato in Italia oltre 10 anni fa, quando il nuovo regolamento CONSOB di attivazione del testo unico dei mercati finanziari ne ha regolamentato gli aspetti. Ma quali sono i vantaggi del trading online? Tra i punti di forza bisogna innanzitutto considerare i minori costi di commissione richiesti all'investitore, ma anche la possibilità di quest'ultimo di potersi informare bene sull'andamento di un particolare titolo o della borsa in generale per effettuare le giuste scelte di investimento. fattori che hanno contribuito alla diffusione del trading online tra una fascia sempre più eterogenea di risparmiatori, accanto a impiegati, promotori e liberi professionisti. A comprare e vendere sul web oggi sono anche pensionati, studenti e casalinghe. Questo anche in seguito allo sviluppo di piattaforme semplici, grazie alle quali l'interazione con i mercati è ormai alla portata di tutti. E allora, per chi però non avesse mai sentito parlare di questo mondo, da domani c'è l'opportunità di andare a togliersi qualche curiosità all'ottava edizione del Trading Online Expo, l'appuntamento a Milano, a Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italiana. Nicolas Bertrand, buongiorno, responsabile mercati azionari e derivati di Borsa Italiana. Buongiorno. Il biglietto da visita di questa edizione del Trading Online Expo, quanti espositori, quanti anche piccoli investitori prevedete di ricevere, anche in relazione a come è andata nelle altre edizioni? Noi ci saranno più di 40 espositori alla Tor Expo, a questa edizione della Tor Expo, quindi sicuramente un'opportunità per i trader di veramente andare a capire tutta l'offerta di questo settore, diversi tipi di prodotti, diversi modi anche di interagirsi con il mercato. Quindi credo sia un'ottima occasione per capire veramente le diverse offerte che propongono gli intermediari per i trader privati. Certo, ho letto, dottor Bertrand, che rispetto al 2009, nei primi mesi di quest'anno il mercato del trading online ha registrato una frenata a causa anche ovviamente di quello che è successo sui mercati finanziari. La volatilità dei mercati è stata calante, è scesa, per cui anche i trader hanno avuto una sorta di ridimensionamento dell'operatività a causa di questo. È così? Beh, quando vediamo i dati di quest'anno, dall'inizio dell'anno, sinceramente molti prodotti, soprattutto sui derivati, registrano dei tassi di crescita molto interessanti. Solo per citarne uno, il future sull'indice è cresciuto del 30% rispetto all'anno scorso. Stiamo ritornando su livelli molto alti. Questo testimonia che magari nel suo complessivo, magari nel mercato cash c'è stato un calo di attività, ma è compensato su altri strumenti. Prodotti. Si vede che i clienti si spostano e utilizzano i prodotti a seconda delle opportunità che si presentano sul mercato. Quindi quello che vediamo è un maggiore interesse sui derivati, in particolare il future sull'indice, che permette quindi di reagire velocemente a determinati andamenti di mercato, ma anche e soprattutto sulle opzioni, proprio che è lo strumento adatto per approfittarsi di movimenti sulla volatilità. Senta, so che poi lei tra qualche minuto ci deve lasciare, però le chiedo, ai piccoli risparmiatori interessati a conoscere appunto tutte le modalità operative di queste piattaforme, che tipo di iniziative offrite in questi due giorni, in questa due giorni del Trading Online Expo? Direi, per parlare delle cose più importanti, sicuramente fare un giro e vedere diversi stand degli intermediari, dei broker online, è una buona idea. Questo per rendersi conto un po' della diversità dell'offerta e di tutti i prodotti a disposizione. Ma anche ci sono dei convegni molto interessanti, per citarne uno giovedì, in mattinata un ETF Day, quindi per quei risparmiatori che vorrebbero caperne di più su questi prodotti in forte crescita, che è l'ETF, che facciamo in collaborazione con ETF Consulting. È un convegno interessante. Ci sono anche dei convegni durante la giornata che puntano sul spiegare l'equity trading, in particolare nel pomeriggio alle 14:30 l'evento equity trading, l'uomo contro la macchina, che un po' un faccia a faccia con un vero algorithmic trader. E saranno presenti Luca Barilaro, Davide Biocchi, Enrico Malverti e Giovanni Borsi. Noi di questi conosciamo Luca Barilaro, che spesso è venuto ad aiutarci a comprendere un po' meglio, insomma, questo mondo. Bertrand, io la ringrazio intanto per averci dato un po' le linee guida di questo evento, che a molti investitori appare, come dire, molto lontano, perché c'è chi continua a preferire di affidarsi appunto all'intermediario tradizionale, e invece c'è chi vuole tentare di esplorare questo mondo, perché magari proprio i costi ovviamente dell'operatività si abbattono per tanti motivi, si può fare tutto da casa comodamente, e oggi tra l'altro le piattaforme, come dicevo prima, sono talmente evolute che danno l'opportunità di avere informazioni di prima mano, appunto stando direttamente seduti a casa senza andarle a cercare chissà dove. Marco Briata, Fineco Bank, è il primo broker online in Europa, più di 1 milione di clienti, se non ricordo male i vostri numeri, e insomma, tra l'altro voi avete anche un modello particolare, perché prima di tutto siete banca, poi avete anche il canale del promotore finanziario. Insomma, oggi qual è il vostro cliente tipo che opera sulle vostre piattaforme? Beh, è vero, siamo innanzitutto una banca e abbiamo tantissimi servizi offerti a diversi tipi di clienti, quindi abbiamo il segmento dei trader più evoluti, praticamente professionisti che operano da casa e fanno diverse operazioni al giorno, ma abbiamo poi anche i clienti che utilizzano la nostra piattaforma per semplicemente comprare un titolo da casa e investire. E poi abbiamo tutti quelli che utilizzano il nostro conto per risparmio, ad esempio utilizzando il nostro servizio di pronti controtermine, o anche il nostro conto per la liquidità. È un conto remunerato che praticamente non ha costi e quindi è una porta d'accesso a poi quelli che sono tutti i servizi di investimento. Certo, ecco, ma la vostra clientela che fa trading online è composta appunto da esperti, da professionisti, oppure c'è anche il neofita che magari prima apre il conto e poi gradualmente si avvicina a questo mondo, e anche con che margini poi di crescita rispetto a questo mercato? C'è sicuramente anche il neofita. Noi vediamo che ogni mese si avvicina al trading online, all'utilizzo delle nostre piattaforme, diverse centinaia di persone che preferiscono utilizzare internet, farlo online piuttosto che la banca tradizionale, per diversi motivi, e non credo siano soltanto i costi. Il motivo prevalente è la facilità, il fatto di potersi collegare da casa, dall'ufficio, attraverso un computer, adesso, lo vedremo domani, anche attraverso ad esempio l'iPhone, un telefonino, sì. Gestire il proprio conto, guardare come stanno andando i propri risparmi, i propri investimenti in tempo reale, comprare magari un titolo con commissioni che sono di solito molto più basse rispetto a quelle di una banca tradizionale. Allora, noi ci dobbiamo fermare perché abbiamo la prima pausa, poi comincio a chiacchierare, non voglio essere maleducata, con Mario Fabbri e Alessandro Capuano appunto fra qualche minuto. Ci sono già delle domande anche di alcuni ascoltatori, questo ci fa piacere. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Ritorniamo a parlare di trading online tra pochissimo. Oggi a Salvadanaio ci siamo tuffati nel mondo tecnologico, l'operatività in borsa attraverso il canale online. Il pretesto è stata la partenza domani presso la sede della Borsa Italiana dell'ottava edizione del Trading Online Expo. E quindi come si fa a fare compravendita di azioni, di obbligazioni attraverso il canale online? Abbiamo invitato stamattina i principali player di mercato nel nostro paese. Abbiamo già sentito l'esperienza di Fineco Bank, la banca è diretta appunto del gruppo Unicredit, il primo broker online in Europa, ma adesso abbiamo altri due soggetti molto interessanti. Intanto Directasim, Mario Fabbri, l'amministratore delegato, il vostro gruppo è stato il primo broker telematico in Italia, leggo testualmente, uno dei primi al mondo forse, operate nel nostro paese da ben prima del 2000, credo. È una sim la vostra, non è una banca, ma una cosa molto carina che fate è l'universiade del trading, coinvolgendo gli studenti universitari. Ce la racconta, dottor Fabbri? Sì, è stata un'idea nata un po' per caso, e abbiamo verificato nell'ambito dell'università, specialmente delle facoltà finanziarie, un forte interesse, e adesso abbiamo permesso a delle squadre, sono 44 squadre da 3 a 5 studenti, di iscriversi e di operare in tempo reale col nostro servizio sulla borsa, e per facilitare le abbiamo fornito anche i mezzi, 5.000 euro a squadra, con l'intesa che se riuscivano a finire i 7 mesi di attività inutile, l'utile sarebbe rimasto a loro, noi avremmo ripreso evidentemente i nostri 5.000 euro, ma la perdita, e che molti devo dire sono finiti in perdita perché il trading è pericoloso, sarebbe rimasto a nostro carico. Ecco, quindi il tema è anche un po' questo, chiaramente qui abbiamo avuto gli studenti universitari che si sono presi questi impegni, hanno avuto anche la costanza ovviamente di seguire un po' questo loro investimento virtuale che hanno fatto, però il tema è anche questo, dottor Fabbri, è un mondo che in maniera molto chiara va detto, non è per tutti, per cui l'approccio deve essere graduale, bisogna avere, lo dicevamo con Alessandro Capuano a microfoni spenti, una grande costanza anche nel seguire il proprio portafoglio, anche se lo si fa di, come dire, entità e di proporzione modesta, comunque il tema è quello, seguirlo, non è un fondo di investimento che spesso lo si può lasciare andare per lungo tempo, qui bisogna monitorare costantemente quello che succede. Ma io direi che è bene distinguere tra due modi diversi, all'estremo del risparmiatore e del trader. Sul risparmiatore, ma io direi piuttosto che non è male l'immagine del cassettista, lo dico contro il nostro interesse, ma se uno ha un approccio di lungo termine, forse non gli conviene stare a sentire tutti i batticuori, fa un buon portafoglio se lo dimentica. All'altro lato, poi ovviamente ci sono anche tutti quegli intermedi, c'è chi invece in qualche misura ama o scopre una propria abilità nell'operare proprio giorno per giorno o addirittura ora per ora, minuto per minuto. E diventa quello che in gergo si chiama scalper, giusto? Lo scalping è una delle modalità, diciamo che questi secondi che fanno evidentemente operazioni molto, cioè un'attività molto più rischiosa, sono diciamo l'1% di quelli che magari sono risparmiatori, investitori in generale. Difatti è un segmento abbastanza ristretto quello dei trader, noi abbiamo poco più di 17.000 clienti e però facciamo una alta percentuale del mercato, non ha niente a che vedere col mondo del banking online. Allora, ultimo attore che vi presento oggi, non per importanza, ultimo intanto diciamo come data di nascita perché ha il compleanno più fresco, diciamo, IG Markets è una piattaforma che opera in un segmento abbastanza particolare, i cosiddetti CFD, contratti per differenza. Alessandro Capuano, che cosa sono e soprattutto insomma quanti operatori, quanti investitori ci sono in questo mercato? Ah, è un mercato che sicuramente sta crescendo. IG è un'azienda che esiste dal 1974, quindi ben prima del trading online. Siamo arrivati in Italia nel 2008 con un ufficio, operavamo già dal 2006 da Londra. Il nostro è un prodotto particolare per cui il cliente con un'unica piattaforma ha la possibilità di operare su questi contratti per differenza, ossia sono dei contratti dove il cliente guadagna la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, e la particolarità è che può operare sia al rialzo che al ribasso praticamente su tutti i mercati finanziari del mondo. Noi offriamo con un unico conto, non siamo una banca, siamo specializzati in questo segmento, offriamo con un unico conto accesso a 12.000 mercati. La cosa interessante è che noi siamo arrivati nel 2008 con un ufficio, ma abbiamo un mercato che adesso ha già intorno agli 8 competitor che sono attivi sul mercato italiano, quindi è un qualcosa che sta crescendo. E mi riallaccio al discorso che faceva Bertrand in borsa, è vero che abbiamo visto un calo delle negoziazioni, ma questo non ha colpito particolarmente i derivati. Noi siamo specializzati, il CFD è un prodotto derivato, è sicuramente un prodotto che non si rivolge assolutamente al cassettista, su questo tipo di segmento, specie sul mercato valutario, abbiamo visto un fortissimo incremento anche nell'ultimo anno. Sarà successo di tutto nelle ultime settimane con le valute che sono andate sulle montagne russe, sicuramente un po' per qualche paese, tra quelli che devono sempre lottare tra import ed export, è un problema. Per voi sarà stato un momento di grande business, immagino. Sì, sicuramente è una componente delle revenue molto, molto importante per quanto riguarda IG come gruppo. La cosa che noi stiamo osservando è che operando su tutti gli altri paesi europei, l'Italia a nostro avviso sul segmento delle valute è ancora più indietro rispetto a, non so, parlo della Francia, la Germania e l'Inghilterra, e quindi riteniamo che ci siano ancora margini e prospettive di crescita su questo che per il risparmiatore retail è un qualcosa di abbastanza nuovo. Allora, io do subito la parola agli ascoltatori, visto che li ho invitati a farci le loro domande sia all'800240024 che al 349-238-6666. Marco Briata, Finecobank, vengo subito da lei. Un ascoltatore chiede, per esempio, qual è il costo medio per l'acquisto online di 1 miliardo di euro su un titolo della borsa italiana? Quanto costa un'operazione basilare come questa? Euro? Il controvalore. Allora, qual è il costo medio per l'acquisto online di ammettiamo un titolo della borsa italiana, un investimento di 1000 euro, quindi un'operazione di questo tipo? Noi facciamo pagare lo 0,19% sul controvalore, quindi con un minimo di 2,95. Quindi dipende ovviamente dal... In questo caso il cliente pagherebbe 2,95 euro. Mm-mm. Poi chiedo anche a Directasim, visto che parliamo appunto di due soggetti anche diversi. Antonio Briata, rimango sempre da lei, chiede come mai se è tutto online ci sono i diritti di custodia? Ci sono i diritti di custodia per un portafoglio titoli appunto aperto presso un canale come questo? No, a me non risulta che ci siano diritti di custodia. Il nostro dossier titoli non ci sono i soliti bolli che si pagano sul conto e sul dossier, ma non ci sono diritti di custodia. Proprio questo ci differenzia anche dall'offerta di alcuni intermediari tradizionali. Benissimo. Fabri, anche per voi è così? Directasim? Non ci sono neanche noi titoli di custodia. Se un giorno dovessimo dare, che so, al mercato portoghese, lì chiederebbero a noi li dovremmo dare, ma certo. Sull'Italia e gli Stati Uniti non ci sono titoli di custodia. Per i CFD, Capuano? No, il discorso è diverso, anche che sono dei prodotti derivati, lavorano su un conto tecnico, non ci sono i diritti di custodia. Quindi Antonio, speriamo di averla soddisfatta. Fabrizio, dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, tolgo l'auricolare. Sì. Volevo intervenire, io sono, opero con una SIM, non so se posso dire il nome. Ci mancherebbe, è qua con noi o non c'è? Sì, diretta. Quindi... almeno ho l'interlocutore subito pronto a cui fare la domanda, ci mancherebbe, ci dica Fabrizio. Praticamente io un anno e mezzo che opero su questa piattaforma, mi trovo molto bene. Chiaramente da casa posso tenere sott'occhio tutto il mio portafoglio giorno per giorno, è una cosa stupenda, però chiaramente anche qualche lato non proprio positivo, nel senso che avendo così sotto mano questa opportunità è difficile mantenere un portafoglio a lungo termine, perché comunque una cosa è dirla, una cosa è farla, perché se uno non ha una piattaforma e quindi opera solo con una banca, quelle tradizionali, costruisce un suo portafoglio e poi ci va ogni tre mesi, oppure si interessa una volta ogni tanto per capire se il suo titolo è andato su o è sceso. Mentre invece avendola così comoda, se c'è un guadagno viene sempre così la voglia di vendere, a volte si sbaglia e a volte si commettono degli errori gravissimi, tipo di investire su azioni che comunque che hanno aziende che sono al collasso, quindi magari io ho già preso anche un fallimento. Quindi comunque è un canale che responsabilizza molto, Fabrizio, non trova? Molto, tantissimo. Io sono veramente soddisfatto pur perdendo molti soldi in questo momento. Ma è assurdo dire questo. Lo capisco, certo, però è stato... È assurdo, però al tempo stesso è una passione. È una passione. No, io ho un portafoglio familiare, di tipo familiare, quindi non è che tantissimi soldi, però sono in negativo, questo... Penso come l'80% di chi opera. Fabrizio, ascolti, devo dare suggerimenti perché in viaggio. Si fermi lì perché poi vorrei capire allora come fa a convivere con questo conflitto di una persona che effettivamente, pur essendo in perdita, è molto soddisfatto del canale che ha scelto per poter gestire il proprio investimento. Attenda un attimo, tra poco. Allora Fabrizio, solamente qualche altro secondo di tempo, poi sentiamo i nostri interlocutori. Quindi lei è contento, però dove non è completamente soddisfatto della scelta che ha fatto? Colpa della piattaforma che ha scelto oppure... Forse doveva essere meglio informato sul funzionamento di questo mondo. Qual è il punto? No, su questo non posso dire niente perché questa piattaforma fa anche dei corsi gratuiti mensili a cui io partecipo nell'ottica di migliorare, perché bisogna avere moltissime esperienze in questo settore. Io credo che il neofita, io è un anno e mezzo che sto operando e mi considero ancora solo per metà neofita, perché serve tantissima esperienza. E anche con l'esperienza si perdono dei soldi, quindi non è così automatico come a volte si intravede tra le righe guadagnare. Anche no, no, qualcosa. Ma noi siamo stati sempre, Fabrizio, guardi, la saluto, abbiamo capito il senso del suo messaggio, noi siamo stati sempre abbastanza rigidi nel voler far passare questo argomento. Mi ricordo quando con Alessandro Capuano abbiamo fatto la puntata proprio sul trading delle valute e ci siamo, come dire, abbiamo veramente, eravamo ossessionati dal tema del dare le raccomandazioni per avere un approccio corretto su questo mercato, soprattutto su quello delle valute, che è aperto 24 ore su 24, per cui davvero un piccolo scossone, un piccolo tsunami che succede da tutt'altra parte del pianeta può riflettersi sul nostro portafoglio di investimento. E quindi che tipo di riflessione fare sulla considerazione di Fabrizio? Poi sento anche gli altri due. Ma sicuramente è un'esigenza. Noi abbiamo fatto dei sondaggi con l'Eurisco un po' di mesi fa a clienti, neofiti, potenziali clienti, e la cosa che è emersa chiaramente, al di là della soddisfazione o non soddisfazione dei clienti, la richiesta di educational, cioè la richiesta di capire, di comprendere. E per i neofiti noi abbiamo un approccio diverso, cioè tutti i nuovi clienti hanno l'opportunità di lavorare con una sorta di limitatore di velocità. Il rischio del trading è farsi prendere la mano. Il nostro programma, che si chiama Trade Sense, permette a tutti i nuovi clienti per 6 settimane di lavorare con dei contratti più piccoli rispetto a quella che sarebbe l'esposizione quindi normale. Insomma lo limitate nell'operatività. E settimana per settimana gli aumentiamo la leva. Ovviamente non è la soluzione, sicuramente ci vuole la costanza, ci vuole l'impegno, ci vuole lo studio, però è un qualcosa che permette a tutti i nuovi arrivati di iniziare con calma, piuttosto che entrare su un prodotto nuovo, una piattaforma nuova. Non si capisce come funzionano i mercati, e la comodità è che il cliente può gestire questo corso online, quindi stando a casa sua e applicando veramente sul mercato il funzionamento delle tecniche. Guglielmo da Napoli, rapidamente, grazie, buongiorno. La mia domanda si collega un po' a quello che è stato detto poco fa per quanto riguarda i corsi che mettiamo a disposizione queste piattaforme. Non potendo essere presente all'evento di Milano, volevo sapere per un neofita come me se i corsi che erano messi a disposizione è da chi? Certo, allora guardi Guglielmo, la sentiamo malissimo, però sentiamo intanto le esperienze che mettono a disposizione dei potenziali clienti le due piattaforme che abbiamo. Ricominciamo con Fineco, Marco Briata. Per chi non sa niente, insomma, apre un conto da voi, chiaramente il primo step è quello dell'apertura del conto, e poi che succede? Succede che noi abbiamo a disposizione dei nostri clienti un calendario di corsi su come funzionano le nostre piattaforme e su come funzionano gli strumenti finanziari presenti in diverse parti d'Italia, ad esempio l'ascoltatore di Napoli. L'ascoltatore di Napoli avrebbe un corso, saremo presenti a Napoli penso al prossimo mese, con un corso su come funziona Fineco e come poter operare attraverso la nostra piattaforma. Sono corsi del tutto gratuiti, sono tenuti da specialisti che conoscono molto bene le piattaforme e gli strumenti finanziari e consentono un primo approfondimento su come utilizzare al meglio, con consapevolezza, il web per investire. Sono d'accordo anche con quello che diceva Capuano, che c'è una grandissima voglia di conoscere da parte dei nostri clienti e da parte delle persone che si stanno avvicinando a internet per investire e per operare, per fare compravendita. Notiamo davvero tantissima curiosità e tantissima voglia di investire, di conoscere meglio gli strumenti. Proprio per questo abbiamo messo a disposizione questo calendario di corsi, di presenza anche fisica sul territorio, per cercare di soddisfare almeno parzialmente questo interesse che esiste. Infatti no, perché poi tra l'altro io vorrei anche ricondurre su un altro terreno il nostro discorso. Non è che bisogna solamente sapere come funziona la piattaforma, quanto costa fare, ma magari avere anche qualche rudimento di economia e di finanza. Mario Fabri, perché se si investe in una società magari è bene che si sappiano leggere un pochino i bilanci, capire quali sono, che ne so, i maggiori competitor di questa azienda, come funziona l'analisi tecnica, quindi anche quali altri variabili possono condizionare il prezzo di un'azione, no? Voi che tipo di corsi fate per i vostri clienti, potenziali clienti? Beh, noi diciamo qui a Torino, e quindi su un'area abbastanza limitata, abbiamo fatto l'anno scorso un 16 brevi corsi serali, che sono appuntamenti a quel Fabrizio di cui prima penso fosse uno di quelli dei nostri ospiti, perché l'ha citato. E poi aggiungiamo anche un'attività in tutta Italia, una ventina di corsi un po' più impegnativi che facciamo in tutto nord, centro e sud, e questi diciamo vertono non solo sull'utilizzo delle nostre piattaforme, ma anche in generale sul come funzionano i mercati e magari delle cose che non sono chiarissime a chi vi si accosta, come le aste, gli ETF, il mercato americano che è diverso da quello, quindi cultura generale per intenderci. E non facciamo granché sull'analisi fondamentale, analisi di bilancio, perché tipicamente i nostri clienti non sono investitori o cassettisti e quindi sono più interessati alla dinamica dei meccanismi, dei mercati finanziari. C'è anche un po' di analisi tecnica, io personalmente sono un po' scettico, come c'è tutto un partito di scettici su questo, ma c'è anche molta richiesta e quindi diciamo gli strumenti a disposizione, poi sarà l'utente che li utilizza se vuole. Briata, ho una domanda per lei di un ascoltatore che ci scrive sul tema dei costi per ovviamente gli ordini eseguiti, che questo ascoltatore sostiene che costano un po' di più rispetto alla cifra che abbiamo dato e che praticamente c'è la riduzione di prezzo in base al numero delle operazioni che si fanno, e così, cioè più operazioni si fanno più il conto per ogni singola operazione va a scalare? Questo è vero, però rispetto al singolo eseguito, se l'eseguito è un eseguito di controvalore da 1000 euro si paga il minimo commissionale che è 2,95. Poi il nostro sistema commissionale prevede un sistema di commissione per millare, quindi si paga una percentuale sul controvalore con un massimo che sono 19 euro, quindi non si paga. Infatti, perché mi dava proprio questa cifra l'ascoltatore, quindi insomma molto correttamente è venuta non fuori. Si pagano 19 euro, se uno fa un eseguito con un controvalore basso non paga 19 euro, paga molto meno. Nel caso dell'ascoltatore di prima con 1000 euro di controvalore paga 2,95. Poi è vero quello che dice l'ascoltatore, questi 19 euro possono andare ad abbattersi lungo il trimestre in funzione delle operazioni che un cliente fa. Per operare invece sui contratti per differenza, Capuano, quali sono le strutture commissionali? Insomma, un trader in questo ambito che tipo di costi deve sostenere, che oneri ha? Ma bisogna fare una differenza tra se si opera sulle azioni, se si opera sui titoli. Noi abbiamo una commissione dell'1 per 1000, quindi dello 0,1, con un minimo eseguito di 2,5 euro. Mentre invece il nostro sistema per quanto riguarda indici, valute e commodities è leggermente diverso, nel senso che il cliente non paga una commissione ma paga uno spread di negoziazione, quindi la differenza dipende tra il denaro lettera. Allora, intanto stavo cercando di capire anche gli altri messaggi che stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori. Dopo aver acquistato un titolo, posso inserire due ordini contemporaneamente, chiede Andrea, uno in guadagno e uno in ribasso, per cui lui dice insomma come va, io ci voglio guadagnare lo stesso. Capuano, per esempio, per i contratti per differenza è possibile? Sì, un'operazione simultanea. Questo è, al di là dei contratti per differenza, è una cosa delle piattaforme. Guadagnare comunque sempre non è proprio così, nel senso il cliente può acquistare un titolo e inserire contestualmente un ordine, si chiama in gergo take profit, ossia per prendere profitto di vendita a un livello più alto, e può mettere il cosiddetto stop loss, ossia un ordine che limita la perdita potenziale in caso in cui il mercato o lo strumento vada al ribasso. Questo può essere inserito ad esempio sulla nostra piattaforma quando vuole, 24/24, ancora prima di iniziare l'operazione. Notizia del New York Times ci segnala Davide da Bologna: il 70% di tutti gli scambi del mondo in borsa sono di posizioni mantenute 11 secondi, per cui è un mondo di scalper quello che ci circonda, e quindi insomma attenzione anche ad avvicinarvi a questo mondo, fatelo con grande consapevolezza. Le kermesse dove potervi informare ci sono, e da domani parte quella di Borsa Italiana. Non riesco a sentire Andrea da Bergamo, io però saluto e ringrazio di essere stati con noi. Abbiamo detto tante cose, eravamo in tanti stamattina, avremmo sicuramente soddisfatto solo una minima parte di tutte le curiosità dei nostri ascoltatori, poi però speriamo di aver sollecitato comunque le curiosità giuste. Grazie a Marco Briata di FinecoBank, buona giornata, presto. Grazie a voi. Grazie anche a Mario Fabri, l'amministratore delegato di Directasim, in bocca al lupo per le vostre universiadi che sono molto carine, arrivederci. Grazie. E grazie anche ad Alessandro Capuano, a presto, grazie. Buon lavoro per domani, tra l'altro voi sarete tutti quanti là, immagino. Buona giornata a tutti, Salva Danaio torna domani e dopodomani ci sarà Valeria De Rosa. Buon fine settimana a tutti, con largo anticipo da Deborah Rosciani. Salva Danaio.